Ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Prima puntata. Parte prima, il caposaldo. Ho ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno. E quando ci ripenso, provo il terrore di quella mattina di gennaio quando la Katiuscia, per la prima volta, ci scaraventò le sue 72 bombarde. Prima che i russi attaccassero, e pochi giorni dopo che si era arrivati, si stava bene nel nostro caposaldo. Il nostro caposaldo era in un villaggio di pescatori in riva al Don, nel paese dei cosacchi. Le postazioni e le trincee erano scavate nella scarpata che precipitava sul fiume gelato. Tanto a destra che a sinistra la scarpata declinava sino a diventare un lido coperto di erbe secche e di canneti che spuntavano ispidi tra la neve. Al di là di un lido, a destra, il caposaldo del Morbegno. Al di là dell'altro, quello del tenente Cenci. Tra noi e Cenci, in una casa diroccata, la squadra del sergente Garrone, con una pesante. Di fronte a noi, a meno di 50 metri, sull'altra riva del fiume, il caposaldo dei russi. Dove eravamo noi, doveva essere stato un bel paese. Ora invece, delle case rimanevano in piedi soltanto i camini di mattoni. La chiesa era a metà e nell'abside erano il comando di compagnia, un osservatorio e una postazione per la pesante. Scavando i camminamenti negli orti delle case, che non c'erano più, uscivano fuori dalla terra e dalla neve patate, cavoli, carote, zucche. Qualche volta era roba buona e si faceva la minestra. Le uniche cose vive, animalmente vive, che erano rimaste nel villaggio erano i gatti. Non più oche, cani, galline, vacche, ma solo gatti. Gatti grossi e scontrosi che vagavano tra le macerie delle case a caccia di topi. I topi non facevano parte del villaggio, ma facevano parte della Russia, della terra, della steppa. Erano dappertutto. C'erano topi nel caposaldo del sergente Sarpi scavato nel gesso. Quando si dormiva, venivano sotto le coperte al caldo con noi, i topi. Per Natale volevo mangiarmi un gatto e farmi con la pelle un berretto. Avevo teso anche una trappola, ma erano furbi e non si lasciavano prendere. Avrei potuto ammazzarne qualcuno con un colpo di moschetto, ma ci penso soltanto adesso, ed è tardi. Si vede proprio che ero intestardito di volerlo prendere con la trappola e così non ho mangiato polenta e gatto e non mi son fatto il berretto con il pelo. Quando si tornava dalla vedetta, si macinava la segala e così ci riscaldavamo prima di andare a dormire. La macina era fatta con due corti tronchi di rovere sovrapposti e dove questi combaciavano c'erano dei lunghi chiodi ribaditi. Si faceva colare il grano da un foro che stava sopra, nel centro, e da un altro foro, in corrispondenza dei chiodi, usciva la farina. Si girava con una manovella. Alla sera, prima che uscissero le pattuglie, era pronta la polenta calda. Diavolo! Era polenta dura, alla bergamasca, e fumava su un tagliere vero che aveva fatto Moreschi. Era senza dubbio migliore di quella che facevano nelle nostre case. Qualche volta veniva a mangiarla anche il tenente, che era marchigiano. Diceva: com'è buona questa polenta. E ne mangiava due fette grosse come mattoni. E poiché noi avevamo due sacchi di segala e due macine, alla vigilia di Natale mandammo una macina e un sacco al tenente Sarpi, con auguri per i mitraglieri del nostro plotone che erano lassù, nel suo caposaldo. Si stava bene nei nostri bunker. Quando chiamavano al telefono e chiedevano chi parla, Chizzarri, l'attendente del tenente, rispondeva: Campanelli! Era questo il nome di convenienza del nostro caposaldo e quello di un alpino di Brescia che era morto in settembre. Dall'altra parte del filo rispondevano: qui Valstagna, parla Beppo. Valstagna è un paese sul fiume Brenta, lontano dal mio 10 minuti di volo d'aquila, mentre qui indicava il comando di compagnia. Beppo, il nostro capitano nativo di Valstagna. Pareva proprio di essere sulle nostre montagne e sentire i boscaioli chiamarsi fra loro, specialmente di notte, quando quelli del Morbegno, che erano nel caposaldo alla nostra destra, uscivano sulla riva del fiume a piantare reticolati e conducevano i muli davanti alle trincee e urlavano e bestemmiavano e battevano pali con le mazze. Chiamavano persino i russi e gridavano: paesani, paruschi, spaccoi na noci! I russi, stupefatti, stavano a sentire. Ma dopo abbiamo preso anche noi confidenza con le cose. Una notte di luna sono uscito con Turn, il piemontese, a cercare qualcosa fra le case diroccate più discoste. Siamo scesi in quei buchi che sono davanti a ogni isba, dove i russi ripongono le provviste per l'inverno e la birra d'estate. In uno c'erano 3 gatti che facevano all'amore e che, seccati, balzarono fuori mandando scintille dagli occhi, facendoci prendere un gran spavento. Quella volta trovai una pentola di ciliegie secche e Turn 2 sacchi di segale e 2 sedie. Ed io in un altro buco uno specchio grande e bello. Volevamo portare quella roba nella nostra tana, ma c'era la luna. E la vedetta russa che stava al di là del fiume non voleva che portassimo via la sua roba e ci sparò. Forse aveva ragione, ma lui non l'avrebbe potuta adoperare. E le pallottole ci passavano vicine fischiando come a dirci: mettete giù! Dietro un camino abbiamo aspettato che una nube coprisse la luna. Poi, saltando fra le macerie, abbiamo raggiunto la nostra tana dove i compagni ci aspettavano. Era proprio bello sedersi su una sedia per scrivere alla ragazza, o radersi guardandoci nello specchio grande, o bere alla sera lo sciroppo delle ciliegie secche bollite nell'acqua di neve. Peccato che non riuscivo a prendere il gatto. Quello che bisognava economizzare era l'olio per i lumini. D'altra parte, un po' di luce ci voleva sempre nelle tane, per il caso di un allarme, sebbene avessimo armi e munizioni sempre a portata di mano. Una notte che nevicava, ero andato con il tenente oltre i nostri reticolati, ove c'era la spiaggia abbandonata fra noi e il Morbegno. Non c'era nessuno là, soltanto rottami aggrovigliati di chissà quali macchine. Volevamo vedere cosa c'era di buono fra quei rottami. Trovammo un bidone di olio e pensammo che potesse servire per fare i lumi e per ungere le armi. Così un'altra notte, che c'era tormenta ed era buio, sono tornato lì con Turn e Bodei. Mettendo il bidone in una posizione comoda per poterlo vuotare nei recipienti che avevamo con noi, si fece del rumore. La vedetta sparò, ma era buio nero come il fondo esterno del paiolo della polenta. Sparò così per scaldarsi le mani. Bodei bestemmiava sottovoce per non farsi sentire. Eravamo più vicini ai russi che ai nostri compagni. Facendo diversi viaggi, riuscimmo a portare nella tana 100 litri di olio. Abbiamo dato un po' di olio al tenente Cenci per il suo caposaldo, poi al tenente Sarpi. Poi anche il capitano ne volle, e la squadra esploratori, e anche il maggiore al comando di battaglione. Infine, stanchi delle richieste, mandammo a dire che non ne avevamo più. quando ci diedero l'ordine di ripiegare. Ne abbiamo lasciato anche per i russi. Nella nostra tana c'erano tre lumi fatti con scatolette di carne vuote. Per gli stoppini si adoperavano stringhe da scarpe tagliate a pezzi. La notte era per noi come il giorno. Camminavo sempre fuori dai camminamenti e andavo da una vedetta all'altra. Mi divertivo a camminare senza far rumore e giungere così alle loro spalle per vederle confuse, chiedermi la parola d'ordine. E io rispondevo: «Ciao Alde Breha!» Poi parlavo loro sottovoce in bresciano, raccontavo qualche barzelletta e dicevo parole sconce. Ridevano a sentirmi, veneto come sono, parlare nel loro dialetto. Solo quando andavo da Lombardi stavo zitto. Lombardi. Non posso ricordare il suo viso senza che si rinnovi in me un fremito. Alto, taciturno, cupo. Quando lo guardavo in viso non mi sentivo di fissarlo a lungo. E quando, molto di rado, sorrideva, faceva male al cuore. Sembrava facesse parte di un altro mondo e sapesse delle cose che a noi non poteva dire. Una notte, mentre mi trovavo da lui, venne una pattuglia russa e le pallottole dei mitra sfiorarono l'orlo della trincea. Io allora abbassai il capo, guardai attraverso la feritoia. Lombardi, invece, stava ritto con tutto il petto fuori e non si muoveva di un filo. Io avevo paura per lui, sentivo di arrossire per vergogna. Una sera poi, durante l'attacco dei russi, venne il sergente Minelli a dirmi che Lombardi era morto con una pallottola in fronte, mentre fuori dalla trincea, ritto in piedi, sparava con il mitragliatore imbracciato. Ricordai allora com'era sempre stato taciturno e il senso di soggezione che mi dava la sua presenza. Pareva che la morte fosse già in lui. La cosa più buffa era quando portavamo davanti alla trincea i gabbioni dei reticolati. Ricordo un alpino, piccolo, sempre attivo, con la barba secca e rada, porta arma tiratore veramente in gamba della squadra di Pintossi. Lo chiamavamo il Duce, bestemmiava in un modo tutto suo particolare ed era ridicolo a vedersi perché indossava un camicione bianco più lungo di lui, così che, camminando, questo si impigliava sempre sotto gli scarponi, scatenando una fila di bestemmie che lo sentivano anche i russi. Si impigliava spesso anche fra i gabbioni di filo spinato che portava con il suo compagno e allora neanche tirava il fiato per bestemmiare. Includeva la naia, i reticolati, la posta, gli imboscati, Mussolini, la fidanzata, i russi. Sentirlo era meglio che andare a teatro. Venne anche il giorno di Natale. Sapevo che era il giorno di Natale perché il tenente la sera prima era venuto nella tana a dirci «È Natale domani!». Lo sapevo anche perché dall'Italia avevo ricevuto tante cartoline con alberi e bambini. Una ragazza mi aveva mandato una cartolina in rilievo con il presepio e la inchiodai sui pali di sostegno del bunker. Sapevamo che era Natale. Quella mattina avevo finito di fare il solito giro delle vedette. Nella notte ero andato per tutti i posti di vedetta del caposaldo e ogni volta che trovavo fatto il cambio dicevo «Buon Natale!». Anche ai camminamenti dicevo «Buon Natale!», anche alla neve, alla sabbia, al ghiaccio del fiume, anche al fumo che usciva dalle tane, anche ai russi, a Mussolini, a Stalin. Era mattina. Me ne stavo nella postazione più avanzata sopra il ghiaccio del fiume e guardavo il sole che sorgeva dietro il bosco di roveri sopra le postazioni dei russi. Guardavo il fiume ghiacciato da su, dove compariva dopo una curva, fin giù dove scompariva in un'altra curva. Guardavo la neve e le peste di una lepre sulla neve. Andavano dal nostro caposaldo a quello dei russi. Se potessi prendere la lepre, pensavo. Guardavo attorno tutte le cose, dicevo «Buon Natale!». Era troppo freddo per star lì fermo e risalendo il camminamento rientrai nella tana della mia squadra. Buon Natale, dissi. Buon Natale. Meschini stava pestando il caffè nell'elmetto con il manico della baionetta. Bodei faceva bollire i pidocchi. Giovanin stava appollaiato nella sua nicchia vicino alla stufa. Moreschi si rammendava le calze. Quelli che avevano fatto gli ultimi turni di vedetta dormivano. C'era un odore forte lì dentro, odore di caffè, di maglie e mutande sporche che bollivano con i pidocchi e di tante altre cose. A mezzogiorno Moreschi mandò per i viveri, ma siccome quel rancio non era da Natale, si decise di fare la polenta. Meschini ravvivò il fuoco, Bodei andò a lavare il pentolone in cui aveva bollito i pidocchi. Turne e io si voleva sempre stacciare la farina e chissà dove e come un giorno Turn riuscì a trovare uno staccio. Ma quello che restava nello staccio tra crusca e grano appena spezzato era più di metà e allora si decise a maggioranza di non stacciarla più. La polenta era dura e buona. Era il pomeriggio di Natale. Il sole incominciava ad andarsene per i fatti suoi dietro la mugila e noi si stava nella tana, attorno alla stufa, fumando e chiacchierando. Venne poi dentro il cappellano del Vestone. «Buon Natale, figlioli, buon Natale!» e si appoggiò con la schiena ad un palo di sostegno. «Son stanco», disse. «Ho fatto tutti i bunker del battaglione. Quanti ce ne sono ancora dopo il vostro?» «Una squadra sola», dissi. «Dopo viene il Morbegno». «Dite il rosario stasera e poi scrivete a casa. State allegri e sereni e scrivete a casa. Ora vado dagli altri. Arrivederci». «Non ha neanche un pacchetto di Milit da darci, padre?» «Ah sì, prendete». E ci butta due pacchetti di Macedonia e va fuori. Meschini bestemmia. Bodei bestemmia. Giovanin dalla sua nicchia dice: «Zitti, è Natale oggi!» Meschini bestemmia ancora più fiorito. «Sempre Macedonia», dice, «e mai trinciato forte o popolari o Milit. Questa è paglia per signorine. Boia Faust», dice Turn, «Macedonia». «Porca la mula», dice Moreschi, «Macedonia». Poi mandai fuori la prima coppia di vedette perché era buio. Ero lì che mi grattavo la schiena vicino alla stufa quando entrò Chizzarri a chiamarmi. «Sergent Maggiù», disse, «ti vogliono al telefono, è il capitano». Mi infilai il pastrano e presi il moschetto domandandomi cosa potessi aver fatto di male. Il telefono era nella tana del tenente. Il tenente era fuori, forse a passeggiare lungo le rive del fiume per sentire gli starnuti delle vedette russe. Era proprio Beppo, il capitano, che mi voleva su a Valstagna, al comando di compagnia. Aveva qualcosa da dirmi. «Che sarà?» pensavo, mentre andavo su alla chiesa diroccata. Con la faccia tonda e rossa, il capitano mi aspettava nella sua tana, che era larga e comoda. Aveva il cappello sulle 23 con la penna dritta come un coscritto, le mani in tasca. «Buon Natale», disse, e poi mi tese la mano e poi un bicchiere di latta con dentro cognac. Mi chiese come andava al mio paese e come al caposaldo. Mi cacciò fra le braccia un fiasco di vino e due pacchi di pasta. Ritornai giù alla mia tana, saltando fra la neve come un capretto a primavera. Nella furia scivolai e caddi, ma non ruppi il fiasco né mollai la pasta. Bisogna saper cadere. Una volta son scivolato sul ghiaccio con 4 gavette di vino e non ne versai una goccia. Io ero giù per terra, ma le gavette le avevo salde in mano con le braccia tese a livello. Ma era successo in Italia di aver 4 gavette di vino al corso sciatori. Quando arrivai al caposaldo, le vedette mi diedero l'alt chi va là parola d'ordine e gridai forte che mi sentirono anche i russi: «Pasta asciutta e vino!»